giù nella valle dei fiumi sbocciano viole che sembrano strade, credo non ricorderai. In quanti baci ci siamo perduti, tornerai alla schiuma d'acque limpide. Mi vedrai sulla sabbia ad aspettarti e ridere. Facendo del